Il terzo anello, ad alta voce. Speciale Pierpaolo Pasolini. Michele Di Mauro legge da Lettere Luterane, Fuori dal Palazzo e brani dall'intervento al congresso del Partito Radicale. Fuori dal Palazzo. Il lettore mi perdoni se parto giornalisticamente da una situazione esistenziale. Mi sarebbe difficile farne a meno. Sono in uno stabilimento di Ostia, tra il turno di lavoro del mattino e quello del pomeriggio. Intorno a me c'è la folla dei bagnanti in un silenzio simile al frastuono e viceversa. In furia la balneazione. Quanto a me, occupato a rigenerarmi dal buio insano del laboratorio di doppiaggio, ho in mano l'Espresso. L'ho letto quasi tutto, come fosse un libro. Guardo la folla e mi chiedo: dov'è questa rivoluzione antropologica di cui tanto scrivo per gente tanto consumata nell'arte di ignorare? E mi rispondo: eccola. Infatti la folla intorno a me, anziché essere la folla plebea e dialettale di 10 anni fa, assolutamente popolare, è una folla infimo borghese che sa di esserlo, che vuole esserlo. 10 anni fa amavo questa folla. Oggi essa mi disgusta. E mi disgustano soprattutto i giovani, con un dolore e una partecipazione che finiscono poi col vanificare il disgusto. Questi giovani imbecilli e presuntuosi, convinti di essere sazi di tutto ciò che la nuova società offre loro, anzi, di essere di ciò esempi quasi venerabili. E io sono qui, solo, inerme, gettato in mezzo a questa folla, irreparabilmente mescolato ad essa, alla sua vita che mostra tutta la sua qualità come in un laboratorio. Niente mi ripara, niente mi difende. Io stesso ho scelto questa situazione esistenziale tanti anni fa, nell'epoca precedente a questa, ed ora mi ci trovo per inerzia, perché le passioni sono senza soluzioni e senza alternative. D'altra parte, dove fisicamente vivere? Ho l'Espresso in mano, come dicevo. Lo guardo e ne ricevo un'impressione sintetica. Com'è diversa da me questa gente che scrive delle stesse cose che interessano a me? Ma dov'è? Dove vive? È un'idea inaspettata, una folgorazione, che mi mette davanti le parole anticipatrici e credo chiare. Essa vive nel palazzo. Non c'è pagina, riga, parola in tutto l'Espresso, ma probabilmente anche in tutto Panorama, in tutto il mondo, in tutti i quotidiani e settimanali dove non ci siano pagine dedicate alla cronaca, che non riguardi solo e esclusivamente ciò che avviene dentro il palazzo. Solo ciò che avviene dentro il palazzo pare degno di attenzione e interesse. Tutto il resto è minutaglia, brulichio, informità, seconda qualità. E naturalmente, di quanto accade dentro il palazzo, ciò che veramente importa è la vita dei più potenti, di coloro che stanno ai vertici. Essere seri significa, pare, occuparsi di loro, dei loro intrighi, delle loro alleanze, delle loro congiure, delle loro fortune e infine anche del loro modo di interpretare la realtà che sta fuori dal palazzo. Questa seccante realtà da cui infine tutto dipende, anche se è così poco elegante e appunto così poco serio occuparsene. Negli ultimi 2 o 3 anni questa concentrazione degli interessi sui vertici e sui personaggi al vertice è diventata esclusiva fino all'ossessione. Non era mai successo in questa misura. Gli intellettuali italiani sono sempre stati cortigiani, sono sempre vissuti dentro il palazzo, ma sono stati anche populisti, neorealisti e addirittura rivoluzionari estremisti, cosa che aveva creato in essi l'obbligo di occuparsi della gente. Ora, se della gente si occupano, ciò avviene sempre attraverso le statistiche di doxa o pragma, se ricordo bene i nomi. Per esempio, è indecoroso occuparsi di casalinghe, nominare le quali può al massimo mettere in ottima disposizione di spirito. Le casalinghe, a quanto pare, non possono essere che dei personaggi comici. E infatti sull'Espresso ci si occupa delle casalinghe, questi animali enigmatici, lontani, perduti nelle profondità della vita quotidiana perché una statistica di doxa o di pragma ha appurato che il loro voto è stato notevolmente importante per la vittoria comunista alle ultime elezioni, cosa che ha fatto tremare il palazzo causando terremoti nelle gerarchie del potere. Le casalinghe vivono nella cronaca, Fanfani o Zaccagnini nella storia. Ma tra le prime e i secondi si apre un vuoto immenso, una diacronia che è probabilmente l'anticipazione dell'Apocalisse. A cosa si deve questo vuoto, questa diacronia? Perché la cronaca, che è stata sempre così importante dal 1945 in poi, è ora chiusa in un reparto stagno, relegata in un ghetto mentale? Analizzata, sfruttata, manipolata, è vero, in tutti i modi possibili suggeriti dalle norme del consumo, ma non collegata con la storia seria, non resa cioè significativa. Perché rapine, rapimenti, criminalità minorili, effettivi coprifuochi, furti, esecuzioni capitali, omicidi gratuiti sono in concreto esclusi dalla logica e comunque mai concatenati? Due ragazzi di 17 anni, alla Dispoli, luogo di villeggiatura della malavita, hanno ferito mortalmente a rivoltellate un loro coetaneo perché non gli aveva dato le candele della sua motocicletta che servivano alla loro. E il Paese Sera intitola il pezzo su questo fatto di cronaca «Assurdo a La Dispoli». Assurdo forse nel 65. Oggi è la normalità. Quel pezzo doveva essere intitolato «Normale alla Dispoli». Perché questo anacronismo nel Paese Sera? Non lo sanno i giornalisti di Paese Sera che l'eccezione è trovare nelle borgate romane un diciassettenne senza rivoltella? Perché nessun giornale ha parlato di una sparatoria con mitra a causa di una Porsche rubata avvenuta due o tre sere fa a Tormarancio? Perché nessun giornale ha parlato dei colpi di rivoltella sparati alle gambe di un giovanotto che fa il culturismo da un ragazzo di 15 anni che gli ha gridato «la prossima volta ti sparo in bocca»? Voglio dire, perché la stampa rimuove e fa passare sotto silenzio migliaia di reati come questi? I furti e gli scippi non si contano, che avvengono ogni notte nelle grandi città, trascegliendo fra tali reati solo quelli di cui non si può decentemente tacere, e per di più sdrammatizzandoli, imponendo all'opinione pubblica un adattamento. Ma non voglio rincarare la dose e passare per un uomo d'ordine. Sia ben chiaro che la malavita mi interessa solo in quanto i suoi rappresentanti sono umanamente mutati rispetto a quelli di 10 anni fa. E ciò non è un episodio. Fa parte di un tutto unico, di una rivoluzione antropologica unica che comprende anche la mutazione delle casalinghe. La domanda reale è: perché questa diacronia tra la cronaca e l'universo mentale di chi si occupa di problemi politici e sociali? E perché all'interno della cronaca questa divisione dei fenomeni? Ciò che avviene fuori dal palazzo è qualitativamente, cioè storicamente, diverso da ciò che avviene dentro il palazzo. È infinitamente più nuovo, spaventosamente più avanzato. Ecco perché i potenti che si muovono dentro il palazzo e anche coloro che li descrivono, stando anch'essi logicamente dentro il palazzo per poterlo fare, si muovono come atroci, ridicoli, pupazzeschi idoli mortuari. In quanto potenti essi sono già morti, perché ciò che faceva la loro potenza, ossia un certo modo di essere del popolo italiano, non c'è più. Il loro vivere è dunque un sussultare burattinesco. Uscendo fuori dal palazzo, si ricade in un nuovo dentro, cioè dentro il penitenziario del consumismo, e i personaggi principali di questo penitenziario sono i giovani. Strano a dirsi. È vero che i potenti sono stati lasciati indietro dalla realtà con addosso, come una ridicola maschera, il loro potere clerico fascista, ma anche gli uomini all'opposizione sono stati lasciati indietro dalla realtà con addosso, come una ridicola maschera, il loro progressismo e la loro tolleranza. Una nuova forma di potere economico, cioè la nuova reale anima, se Moro permette, della Democrazia Cristiana, che non è più un partito clericale perché la Chiesa non c'è più, ha realizzato attraverso lo sviluppo una fittizia forma di progresso e tolleranza. I giovani che sono nati e si sono formati in questo periodo di falso progressismo e falsa tolleranza stanno pagando questa falsità, il cinismo del nuovo potere che ha tutto distrutto, nel modo più atroce. Eccoli qui, intorno a me, con un'ironia imbecille negli occhi, un'aria stupidamente sazia, un teppismo offensivo e afasico, quando non un dolore e un'apprensività quasi da educande con cui vivono la reale intolleranza di questi anni di tolleranza. Nello stesso numero dell'Espresso che dicevo, Moravia recensisce un film che parla di un padre per bene che ha un figlio contestatore, assassino, e conclude in assoluta coerenza con tutto se stesso che ha un simile padre, in un simile frangente non resta altro che cercar di capire il figlio. Non fare tragedie, non ammazzarlo, non ammazzarsi, ma cercar di capirlo. E dopo che l'ha capito? Mi chiedo io, dopo che ha compiuto questo magnifico atto di liberismo morale? Certo, il capire di cui parla Moravia è un capire razionale, cioè occidentale, e comporta dunque la necessità di un susseguente agire. Ammettiamo che questo padre, dopo essersi messo nello stato d'animo di un entomologo che studia il suo insetto, riesca alla fine a capire il figlio e trovi che egli è un imbecille, un presuntuoso, un incerto, un aggressivo, un vanitoso, un criminaloide, oppure anche un sensibile disperato. Cosa dovrebbe fare? Accontentarsi di averlo capito? ma l'accontentarsi di capire implica imparzialità e indifferenza. È l'agire che qualifica. È un padre che ama, agisce. Egli è destinato a restare morto nella polvere come il negrettolaio. Non esiste altra possibilità. Dunque il capire è il meno. E l'agire non può consistere in altro che nell'aggredire il figlio per poter restare appunto alla fine morto sulla polvere. Io guardo i figli, cerco di capirli e infine agisco. Agisco dicendo loro quella che io credo la verità sul conto loro. Voi vivete nella cronaca, che è la vera storia, perché anche se non è definita, non è accettata, non è parlata, è infinitamente più avanti della nostra storia di comodo. Perché la realtà è nella cronaca, fuori dal palazzo, e non nelle sue interpretazioni parziali o peggio ancora nelle sue rimozioni. Ma questa cronaca vi vuole sconvolti in una crisi di valori perché il potere, creato in conclusione da noi, ha distrutto ogni cultura precedente per crearne una propria fatta di pura produzione e consumo e quindi di falsa felicità. La privazione dei valori vi ha gettato in un vuoto che vi ha fatto perdere l'orientamento e vi ha umanamente degradati. La vostra massa è una massa di criminaloidi a cui non si può più parlare in nome di niente. Le vostre poche élite colte, socialiste o radicali o cattoliche avanzate, sono soffocate da una parte dal conformismo e dall'altra dalla disperazione. Gli unici che si battono ancora per una cultura e in nome di una cultura, in quanto si tratta di una cultura diversa, proiettata verso il futuro e quindi al di là, fin da principio, delle culture perdute, quella di classe borghese e quella arcaica di popolo, sono i giovani comunisti. Ma per quanto potranno difendere ancora la loro dignità? Da notarsi che Laio è stato ucciso fuori dal palazzo. Né poteva essere altrimenti. Intervento al congresso del Partito Radicale. Paragrafo primo. A. Le persone più adorabili sono quelle che non sanno di avere dei diritti. B. Sono adorabili anche le persone che, pur sapendo di avere dei diritti, non li pretendono o addirittura ci rinunciano. C. Sono abbastanza simpatiche anche quelle persone che lottano per i diritti degli altri, soprattutto per coloro che non sanno di averli. D. Ci sono nella nostra società degli sfruttati e degli sfruttatori. Ebbene, tanto peggio per gli sfruttatori. E. Ci sono degli intellettuali, gli intellettuali impegnati, che considerano dovere proprio e altrui far sapere alle persone adorabili, che non lo sanno, che hanno dei diritti. Incitare le persone adorabili, che sanno di avere dei diritti ma ci rinunciano, a non rinunciare, spingere tutti a sentire lo storico impulso a lottare per i diritti degli altri e considerare, infine, incontrovertibile e fuori da ogni discussione il fatto che tra gli sfruttati e gli sfruttatori, gli infelici sono gli sfruttati. Tra questi intellettuali che da più di un secolo si sono assunti un simile ruolo, negli ultimi anni si sono chiaramente distinti dei gruppi particolarmente accaniti a fare di tale ruolo un ruolo estremistico. Dunque mi riferisco agli estremisti giovani e ai loro adulatori anziani. Tali estremisti, voglio occuparmi soltanto dei migliori, si pongono come obiettivo primo e fondamentale quello di diffondere tra la gente, direi apostolicamente, la coscienza dei propri diritti. lo fanno con determinazione, rabbia, disperazione, ottimistica pazienza o dinamitarda impazienza secondo i casi. E dato che non si tratta solo di suscitare negli adorabili ignari la coscienza dei propri diritti, ma anche la volontà di ottenerli, la propaganda non può non essere soprattutto pragmatica. Paragrafo secondo. Disobbedendo alla distorta volontà degli storici e dei politici di mestiere, oltre che a quella delle femministe romane, volontà che mi vorrebbe confinato in Elicona esattamente come i mafiosi a Ustica, ho partecipato una sera di quest'estate a un dibattito politico in una città del nord. Come sempre poi succede, un gruppo di giovani ha voluto continuare il dibattito anche per strada, nella serata calda e piena di canti. Tra questi giovani c'era un greco, che era appunto uno di quegli estremisti marxisti simpatici di cui parlavo. Sul suo fondo di piena simpatia si innestavano però manifestamente tutti i più vistosi difetti della retorica e anche della sottocultura estremistica. Era un adolescente un po' laido nel vestire, magari anche addirittura un po' scugnizzo, ma nel tempo stesso aveva una barba di vero e proprio pensatore, qualcosa tra Menippo e Aramis. Ma i capelli, lunghi fino alle spalle, correggevano l'eventuale funzione gestuale e magniloquente della barba con qualcosa di esotico e irrazionale, un'allusione alla filosofia braminica, all'ingenua alterigia dei Gurumparampara. Il giovane greco viveva questa sua retorica nella più completa assenza di autocritica. Non sapeva di averli, questi suoi segni così vistosi, e in questo era adorabile esattamente come coloro che non sanno di avere diritti. Tra i suoi difetti vissuti così candidamente, il più grave era certamente la vocazione a diffondere tra la gente, un po' alla volta, diceva. Per lui la vita era una cosa lunga, quasi senza fine, la coscienza dei propri diritti e la volontà di lottare per essi. Ebbene, ecco l'enormità, come l'ho capita in quello studente greco, incarnata nella sua persona inconsapevole. Attraverso il marxismo, l'apostolato dei giovani estremisti di estrazione borghese, l'apostolato in favore della coscienza dei diritti e della volontà di realizzarli, altro non è che la rabbia inconscia del borghese povero contro il borghese ricco, del borghese giovane contro il borghese vecchio, del borghese impotente contro il borghese potente, del borghese piccolo contro il borghese grande. È un'inconscia guerra civile, mascherata da lotta di classe dentro l'inferno della coscienza borghese. Si ricordi bene, sto parlando di estremisti, non di comunisti. Le persone adorabili che non sanno di avere diritti, oppure le persone adorabili che lo sanno ma ci rinunciano, in questa guerra civile mascherata, rivestono una ben nota e antica funzione, quella di essere carne da macello. Con inconscia ipocrisia, essi sono utilizzati in primo luogo come soggetti di un transfert che libera la coscienza dal peso dell'invidia e del rancore economico, e in secondo luogo sono lanciati dai borghesi giovani, poveri, incerti e fanatici come un esercito di paria puri, in una lotta inconsapevolmente impura, appunto, contro i borghesi vecchi, ricchi, certi e fascisti. Intendiamoci. Lo studente greco che qui ho preso a simbolo era a tutti gli effetti, salvo rispetto a una feroce verità, un puro anche lui come i poveri. E questa purezza ad altro non era dovuta che al radicalismo che era in lui. Thank you. Michele Di Mauro ha letto di Pierpaolo Pasolini Fuori dal palazzo e brani dall'intervento al congresso del Partito Radicale, da Lettere Luterane. Speciale a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it